Ecco, allora ha ora la parola il professor Carlo Poni, docente di storia economica nell'Università di Bologna, che parlerà su scienza, tecnologia e controriforma, la teologia polemica di Tommaso Bozio. Il professor Poni, appunto, tra i grandi, diciamo così, della storia economica italiana e non solo italiana, e quindi, come si suol dire, non ha bisogno di presentazione. Io posso solo dire che quando abbiamo progettato questo seminario, la prima persona che mi è venuta in mente non era un esperto di storia ecclesiastica, ma è stato il professor Poni. Mi fai troppo onore. Ecco, e quindi credo che il suo intervento sia molto importante proprio in questa penultima nostra sessione in cui esaminiamo appunto il moderno nella sua forma tecnologica e scientifica. Grazie. Grazie. Ho incominciato a leggere le opere di Tommaso Bozio circa 30 anni fa. Una lettura che misi rapidamente a frutto, scrivendo in gran fretta, c'era un concorso in vista, un breve articolo stampato in non più di 100 esemplari, di cui solo Langsam, ok, di cui solo 40 circa hanno circolato fra commissari del concorso e amici. Altrettanti sono finiti nelle mani degli studenti, uno anche quest'anno, mentre ciò che resta è ancora nella mia biblioteca. L'intenzione iniziale era quella di far seguito a questa pubblicazione clandestina e provvisoria uno scritto più sostanzioso, ma le cose sono andate in modo diverso. Nel corso degli anni ho continuato a raccogliere schede e fotocopie su Bozio e sui temi da lui trattati, ma distratto da altre curiosità e da altri impegni, non sono riuscito a passare dalle intenzioni evidentemente poco solide al concreto fare, cioè a scrivere. Anche per questo ho accettato con grande piacere l'invito del caro amico Paolo Prodi di riproporre, aggiornato e anche rimanipolato, il contenuto del vecchio articolo nella settimana dedicata appunto al Concilio di Trento e il moderno. Mi auguro di ricevere critiche, osservazioni, suggerimenti, stimoli che mi aiutino a condurre in porto, cioè in tipografia, questa ricerca piuttosto trascurata, ma in fondo amata, visto che non riesco a distaccarmene. Il problema dei rapporti fra religione da una parte, economia, scienza e tecnologia dall'altra, è stato oggetto di vivaci e appassionate ricerche da quando Max Weber affermava all'inizio del secolo l'esistenza di uno specifico rapporto fra l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Questo piccolo ma prezioso libro è senza dubbio alcuno un'opera geniale, affascinante, stimolante, forse anche non falsificabile. All'occhio dello storico, ma anche del sociologo, penso al recente libro di Gianfranco Poggi, può anche apparire privo di un adeguato supporto documentario. Ma si tratta pur sempre di un libro che ha agitato acque profonde, che ha capovolto il rapporto, per così dire, fra struttura e sovrastruttura, che ha suscitato infinite discussioni, che ancora fa discutere. Questo paper, sebbene usi parole come economia, scienza, tecnologia e religione, che sono le stesse di Max Weber e del suo maggiore seguace, Thomas Merton, risponde a interrogativi e questioni completamente diverse. Non intendo dimostrare né l'influenza di determinate convinzioni religiose sul sistema economico, sulla scienza e sulla tecnologia, né l'influenza di questi ultimi fattori nel campo della fede religiosa. Lasciate da parte predestinazione e usura, ho piuttosto cercato di portare l'indagine sulle controversie confessionali dell'età della riforma e della controriforma, per vedere se esse non abbiano dato vita, sotto l'incalzare delle stesse polemiche che imponevano un continuo sforzo di potenziamento e aggiornamento delle armi dottrinali, all'idea di un rapporto fra economia, scienza, tecnologia e religione. Il problema non è arbitrario. La scienza e la tecnologia entrano sempre più largamente nel secolo XVI nelle riflessioni di filosofi, economisti e letterati. Si pensi ai sostenitori della superiorità dei moderni sugli antichi, da Fernel a Blaise de Vigenère, a Baudin, a Leroy, a Bruno e ad altri, i quali avvaloravano la loro tesi soprattutto con due argomenti. Primo, le nuove invenzioni, bussola, stampa, cannoni, inconfutabile dimostrazione dei progressi realizzati dal genere umano. Secondo, le grandi scoperte geografiche. Non mi soffermerò sulle citazioni, del resto notissime, vale invece la pena di sottolineare che questo tipo di argomento non compare solo sul terreno dei confronti fra il passato e il presente. I nuovi orizzonti delle scoperte geografiche non provano solo la superiorità dei moderni sugli antichi, ma anche quella dell'Europa sull'Asia e sull'Africa. L'età delle scoperte cresce e si sviluppa infatti, a incominciare dalla fine del secolo XV, in connessione con l'espansione mondiale europea, quando gli occidentali non solo raggiunsero le isole delle Spezie, ma conquistarono ed estesero progressivamente il controllo delle vie oceaniche. Vele e cannoni rappresentano oramai su tutti i mari, come ha dimostrato Carlo Cipolli in un libro vele e cannoni rappresentano oramai su tutti i mari la forma concreta della supremazia europea e alimentano su tutti i mari e alimentano nel contatto fra realtà contemporanee e disuguali la consapevolezza di dislivelli tecnologici, scientifici, economici e sociali fra continenti e paesi. Scriveva il Botero in una pagina che possiamo considerare come conclusiva di un lungo processo di conoscenze e di confronti. L'Europa, se tu guardi la grandezza, è minore delle altre parti del mondo, ma se tu consideri i popoli e gli ingegni loro e la facoltà e ricchezze, non cede all'Asia e supera di gran lunga l'Africa. Ma che diremo della nobilissima arte della stampa e dell'inestimabile invenzione dell'artiglieria propria dell'Europa? Perché sebbene si dice che cinesi e cataini hanno prima di noi avuto l'una e l'altra, si sono però trovati qui ambedue come cose nuove e condotte a tanta eccellenza e perfezione che non paiono delle stesse specie presso noi e presso quei barbari. Ma nell'Africa e nell'Asia hanno cosa degna d'essere paragonata con l'uso della bussola, la calamita, dice lui, ritrovata nella costa d'Amalfi e con l'eccellenza dei popoli d'Europa nella navigazione, col cui beneficio gli spagnoli, condotti da un italiano, hanno scoperto un mondo nuovo e i portoghesi, costeggiata tutta l'Africa, e ritrovato viaggi a paesi infiniti che non vennero mai a notizia degli antichi. Le scienze, poi, le quali nacquero nell'Egitto e nella Giudea, onde passarono in Grecia, si sono ora fermate fra noi. E la vera religione e fede di Cristo, Signor nostro, non è pure sincera fuori d'Europa, se non nei paesi dove i popoli di Europa l'hanno nuovamente portata. Ho citato largamente le parole di Botero perché in esse l'eccellenza e perfezione tecnologica per cui l'Europa viene definita superiore all'Asia e all'Africa appare accostata alla vera religione e fede di Cristo. Certo, le relazioni universali non contengono nessuna reale analisi dei rapporti fra fede, tecnologia e scienza. I due concetti appaiono giustapposti l'uno all'altro. Ma qual è la vera religione e fede di Cristo? Dopo che la profonda crisi della Riforma aveva distrutto l'unità del cristianesimo medievale, pochi interrogativi possedevano una più immediata attualità. E la verità di una confessione sull'altra era dibattuta sui campi di battaglia non meno che nelle controversie dei teologi. In questa lotta, che fu veramente senza quartiere, anche l'argomento della superiorità tecnologica e scientifica poteva diventare un'arma di battaglia, e lo diventò nei fatti. In questa nuova versione l'argomento fu presentato in modo tale da rivendicare a una confessione religiosa la superiorità su tutte le altre. Secondo i risultati delle mie ricerche, che si sono svolte soprattutto in Italia e quindi prevalentemente su fonti cattoliche, l'idea di questa rivendicazione fu formulata alla fine del secolo XVI da un teologo cattolico. Si tratta di un'affermazione provvisoria che altri studi potranno eventualmente modificare. Ma in quale contesto culturale è nata l'idea di utilizzare l'argomento della superiorità scientifica e tecnologica a vantaggio della verità del cristianesimo romano? Qui dirò che questo argomento è nato sul terreno della cosiddetta teologia polemica, nella discussione sulle note e sui signa della vera Chiesa. Questo tema, che è quello della dimostrazione scientifica, tra virgolette, della verità della Chiesa, non era nuovo. Esso era nato con lo stesso sorgere delle prime comunità cristiane, quando apparvero quelle rotture che l'Apostolo Paolo aveva previsto come inevitabili. Già Sant'Agostino, in polemica con i donatisti, si poneva la domanda «Ubi est ecclesia Dei?». Tuttavia, questa parte dell'apologetica poté pervenire a un alto grado di sistemazione e di sviluppo solo nei secoli XVI e XVII, quando la pretesa di ciascuna delle grandi comunità religiose rivali di essere autentiche o uniche erede e interpreti della parola di Gesù pose con urgenza nuova il problema dei signa, delle note, con cui riconoscere la vera Chiesa dalle altre, di cui spesso si parlava e scriveva come di costruzione del demonio e dell'anticristo. Qui basti dire che gli studiosi di ecclesiologia distinguono quattro gruppi di note: quelle contenute nella Bibbia, che sono l'universalità, e nel Vangelo, che sono l'universalità, la visibilità, la santità, l'unità, i miracoli; quelle agostiniane, la saggezza perfetta, l'accordo universale della fede, eccetera; quelle leriniane, derivate dal Communitorium di Vincent de Leroy, l'universalità, l'antichità, l'accordo universale; quelle del simbolo. Quelle del simbolo di Costantinopoli, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Nelle controversie dottrinali, i cattolici e protestanti attinsero in modo disuguale e diverso queste quattro fonti. Mentre i protestanti tendevano a ridurre il numero delle note, i cattolici per tutto il secolo XVI si mossero in una direzione opposta. Essi cercavano piuttosto di moltiplicarle, scavando con analitica tenacia nel solco della tradizione ed anche innovandola con nuove determinazioni laddove questa si rivelava inadeguata alle esigenze delle controversie. Così il Cunerus, in polemica con la concezione anabattista della Chiesa dei Santi, vedeva una proprietà, una nota della vera Chiesa, della presenza dei buoni e dei cattivi. Altri invece affermavano la verità della Chiesa Cattolica delle sconfitte di coloro che l'avevano perseguitata. L'argomento esemplificato dal Medina si ritrova poi in Bellarmino, articolato in due note, la decima quarta, in Felix exitus seu finis eorum qui ecclesiam oppugnant, cioè la sconfitta di coloro che hanno combattuto la Chiesa, e la decima quinta, che si intitola Felicitas temporalis, la felicità temporale. Il tema in se stesso non è nuovo, lo si ritrova in Sant'Agostino e prima ancora nella Bibbia. Anche Cicerone, nella sua De Natura Deorum, dice che gli dèi proteggono i loro fedeli. Nuovo invece rispetto alla tradizione è la collocazione di questa espressione tra le note. La semplice formulazione dell'idea che la vera Chiesa poteva essere riconosciuta dalla rovina dei suoi nemici e dalla felicità temporale dei suoi fedeli può suscitare un giustificato interesse. Purtroppo sia il Medina che il Bellarmino svolgono questo concetto in un modo ristretto e tradizionale. Essi li identificano con la fortuna militare dei principi e delle forze cattoliche, esemplificata da Costantino, battaglia di Ponte Milvio, fino alla vittoria su Zwingli dei cantoni cattolici. Il secondo tomo delle controversie bellarminiane, con l'analisi di 15 note, uscì nel 1588, ma non passarono neppure tre anni che un prete della congregazione dell'oratorio, Tommaso Bossio, dal 1582 collaboratore del baronio nella preparazione degli annali, poteva trionfalmente presentare a Gregorio XVI un'opera in due tomi, De Signis Ecclesiae Dei, in cui le note della vera Chiesa sono diventate 100, i 100 segni della vera Chiesa di Dio. Qualche notizia sulla vita di Tommaso Bossio: nasce a Gubbio nel 1548, studia legge a Perugia, va a Roma per esercitare l'avvocatura, quindi è un avvocato, questa è una cosa che ogni tanto richiamerò in seguito. Nel 1571 entra nella congregazione di San Giovanni dei Fiorentini, che è precisamente la congregazione di San Filippo Neri, diventa un oratoriano e fu insieme al Baronio una delle maggiori personalità tra i seguaci di San Filippo Neri. Eresse per alcuni anni l'oratorio della Valicella. Muore a Roma il 9 dicembre 1610. Questi 100 segni rappresentarono un primato senza precedenti e che doveva restare ineguagliato fin verso la seconda metà del secolo XVII, quando il gesuita Lucchesini pubblicò nel 1688 i suoi Centum Evidentia Signa Vere Fidei. Ma non è il numero delle note, che, per quanto cospicue, che può interessare, importa invece sottolineare il posto di singolare rilievo e la varia articolazione che fra le 100 note occupano quelle più o meno direttamente collegate alla temporalis felicitas. Concetti già contenuti nelle note bellarminiane si riconoscono facilmente, basta scorrere i titoli: prudenza politica, prudenza e fortezza militare, sono le note della vera Chiesa, ignavia degli eretici contro i nemici, aiuto del cielo nelle battaglie, felice discendenza dei re cattolici e così via. Collegata sia al concetto della temporalis felicitas come a quello della perfetta sapienza è la nota 24esima, che afferma la superiorità dei cattolici in tutti i campi del sapere e del saper fare, quindi nella filosofia, nella teologia, nella matematica, l'architettura, la storia, la poesia, la pittura, la scultura, la fisica, la tecnologia, la medicina, l'astrologia e anche l'agronomia. Tra i nomi più significativi, perché è coi nomi, no, che Bossio verifica, prova le proprie note, ci sono i nomi di Sacrobosco, di Poerbach, Regiomontano, Maurolico, Copernico, Fracastoro, Vesaglio, Fernel, Rondelet, Comandino, Clavio, Leon Battista Alberti, Vignola, Pier Crescenzi, Agostino, Mattioli ed altri. Io non leggerò questi in modo completo questi elenchi di nomi. Vi do come esempio di un modo di lavorare, di un modo di concepire la ricerca, diciamo, perché queste in fondo, queste conclusioni si basano su ricerche veramente approfondite. A questo elenco segue il tema degli inventa nobilia catholicorum, cioè si potrebbe tradurre delle nobili invenzioni o innovazioni dei cattolici. È una nota che occupa non poche pagine. Il posto d'onore, naturalmente, è riservato alla scoperta delle Americhe. I nomi sono ovviamente quelli di Colombo e di Vespucci, che indicarono anche la via per una facile e rapida navigazione. A questi seguì il nome di Fernando Magellano. La superiorità dei cattolici nei confronti dei grandi navigatori dell'antichità, uno di questi è Ulisse, è attribuita, però, qui c'è un senso concreto delle cose, all'invenzione di nuovi tipi di navi, molto più efficienti per la traversata dell'oceano e alla scoperta della bussola, all'uso delle carte nautiche. Oltre ad aver inventato nuove tecniche di navigazione, i cattolici, in realtà qui abbiamo i veneziani, avevano inventato il modo con cui riportare alla superficie le navi affondate. Dall'arte nautica, passando agli strumenti matematici, Bossio afferma che i cattolici ne avevano inventati tanti che era impossibile enumerarli tutti, ma intanto elenca fra gli altri l'astrolabio di Gemma Frisio, quello di Giovanni Rojas, il cosmolabio di Besson, l'olometro di Abel Fulon, l'anello sferico del Filandro, le verghe astronomiche di Antonio Lupicino, il radium latino di Ignazio Danti e così via. Le macchine con cui sollevare l'acqua aprono una nuova rubrica con le citazioni di Giorgio Valla, che ne aveva inventate 19, di Giuseppe Ceredi, che ne aveva enumerate 18. Ricordato il Besson per aver raffigurato 50 macchine, è l'autore di un libro di macchine, Besson, un famoso libro di macchine, il Bossio continuava, varia sporo machina savares catholicis iam pridem inventa ad servem veneti magistratus. Dice in sostanza che i magistrati veneti conservavano nelle stanze di comune, lui qui non lo dice, modelli di macchine. Quindi c'era a Venezia, ma c'era effettivamente, perché io poi mi sono documentato, c'era precisamente un museo dell'innovazione, che non era aperto al pubblico, ma a cui si poteva accedere dietro permesso appunto della signoria, dietro il permesso del doge. Io so appunto di qualcuno che in quegli anni ha visitato, che poi il Ceredi, quindi faccio anche il nome, ha visitato questi modelli di macchine. Segue poi la citazione di Tartaglia e di Guidobaldo per aver analizzato i movimenti meccanici e di Michelangelo per aver dato in luce a Roma una macchina che serviva per alzare altissimi pesi. L'invenzione degli orologi meccanici è una nuova occasione per celebrare insieme la superiorità dei moderni e dei cattolici, denominazione continua con i nomi dei matematici, da Luca Pacioli al Bombelli, al Tartaglia, al Cardano. Si passa poi con nuovi elenchi alla musica e alla dialettica. Un particolare rilievo è dato all'invenzione della stampa. Per catholicos celitus data, cioè date ai cattolici come dono di Dio, dal cielo, è un premio che scende dal cielo. Così giungiamo, un po' rapidamente, ma forse anche troppo dettagliatamente, alla fine di lunghi inventari, qui riprodotti solo parzialmente, che termina con un accenno alla distillazione, nostrorum inventio, invenzione dei nostri, dei cattolici, e agli occhiali, che gli antichi non avevano, e alle bombarde, di gran lunga superiori alle macchine belliche degli antichi, dichiarate ridicole al confronto. La nota si chiude con una sfida. Mostrino ora gli eretici quali sono le loro forze, qual è la loro capacità, qual è la loro perizia in tutte le arti, dicano, devono dire forte quali sono le loro innovazioni, le loro invenzioni. In un eccesso di foga polemica, che non gli impedirà di formulare in altre note giudizi più equilibrati, e gli afferma che gli eretici erano quasi diventati simili alle bestie, feritate, libidine, ignoranzia, omnium rerum. Ma se le cose stavano così, quomodo isitur exillis ecclesia dei. Bisogna riconoscere che l'argomento della superiorità tecnologica e scientifica è pervenuto nel De Signis a un alto grado di completezza e di articolazione a paragone dei testi in cui si sostiene la superiorità dei moderni sugli antichi. Bossio è più completo degli altri. Ma occorre subito aggiungere che le forzature polemiche ne hanno indebolito l'oggettività. Invece di assumere come termine a quo la riforma, per poi confrontare la scienza e la tecnologia dei paesi cattolici e protestanti, il Bossio getta sul piatto della bilancia tutta la tradizione culturale, scientifica e tecnologica della cristianità occidentale e anche orientale, con l'intento di schiacciare avvocatescamente, e difatti è un avvocato, i nemici della sua Chiesa. L'attenta lettura rivela inoltre errori e imprecisioni. Rondelet fu cattolico oppure calvinista? Secondo Natalie Davis, Besson era un protestante. Quale storico potrebbe considerare cattolico il Cardano? Non so. Che cosa hanno a che vedere con i catholicorum nobilissimi inventi e tentativi del Valle di interpretare le macchine di Erone e Alessandrino? Inoltre, il Bossio ignora completamente l'intensa attività della riforma nel campo dell'educazione e della pedagogia, secondo una linea di attacco che è comune alla letteratura controversistica di parte cattolica, mentre sottolinea spesso il fatto, no, del grande impegno della Chiesa cattolica nell'apertura delle scuole, di pubblici ginnasi, eccetera. Ma il Bossio non fu ripetitore di argomenti belli e pronti. Fra gli apologeti della Chiesa cattolica, egli occupa un posto singolare e non ancora adeguatamente analizzato, perché egli cercò di mediare insieme nel De Signis l'apologetica dogmatica, che raggiungeva in quegli anni il proprio culmine nell'opera di Bellarmino, e l'apologetica storiografica in cui il Baronio si stava affermando coi suoi poderosi annales. dell'originalità della sua posizione culturale, il Bozio era in qualche modo consapevole. Scriveva nel dicembre 1588 ad Antonio Talpa, prefetto dell'oratorio di Napoli: «Cammino per un campo molto nuovo, nel quale mi si aprono dai Dio benedetto strade, nelle quali mi meraviglio di me medesimo, scorgendo i favori segnalatissimi di sua divina maestà ha fatto e fa a sua santa Chiesa e suoi seguaci in ogni parte. Dicoli con semplicità che, supposta la divina scrittura, o per pigliarla più largamente, supposto questa verità che Dio ci sia, mi pare aver perduto la fede, vedendo apertissimamente dov'è la Chiesa di Dio e i suoi figlioli». E la Chiesa di Dio e i suoi figlioli credeva di vedere apertissimamente nella storia, che egli trattò nel De Signis in frequente polemica con i centuriatori, non tanto come oggetto di narrazione, ma di dimostrazione e di verifica. Questo tipo di svolgimento gli era suggerito sia dagli intenti apologetico-dogmatici, come dalla familiarità con la letteratura delle scoperte geografiche, delle navigazioni, dei viaggi, che aveva suscitato in lui l'interesse per le descrizioni etnografiche. Scorrendo le pagine del De Signis, ci si imbatte di frequente nelle notizie esotiche tratte dalle opere del Vartena, dell'Alvarez, di Leo Africano e anche da pubblicazioni più recenti come la Historiarum Indicarum del Maffei e la Moscovia del Possevino. Alle vaste conoscenze geografiche dobbiamo lo sforzo di descrivere i caratteri della tirannia dell'Oriente su un'area molto più ampia di quella tradizionale, che va dall'impero turco all'Etiopia, alla Moscovia, alla Cina. A questi imperi tirannici, noi diremmo dispotici, ma io uso questa parola, fondati solo metu, non amore, sulla paura e non sull'amore, egli opponeva il governo della Repubblica Veneta e della Chiesa Cattolica, in cui ravvisava l'equilibrata fusione del principio monarchico con quello aristocratico e popolare. E poi fa una notazione che io trovo di estrema importanza, non so se qualcuno l'abbia fatta prima di lui, dice appunto che negli stati tirannici dell'Oriente, essendo esclusa la proprietà privata della terra, questo impediva, era un fortissimo impedimento alla felicità temporale, sia dei sudditi come dei re. Devo dire che questo è un punto su cui tutti coloro che studiano i paesi dell'Oriente concordano: il mancato sviluppo è dovuto, per esempio nell'impero ottomano, è dovuto al fatto che il principio di eredità viene spessissimo violato da parte del califfo, da parte del sovrano, che si impadronisse dei beni dei sudditi. Soprattutto era difficile, diciamo, nel mondo musulmano e anche nei mondi dell'estremo Oriente, salvo il Giappone, acquistare terra, perché appunto il diritto sulla terra è un diritto molto volatile, non ha la forza che ha invece nei paesi occidentali. E inoltre diceva che sia a Venezia, ma come soprattutto nella Chiesa Cattolica, esistevano le condizioni per gli strati sociali inferiori di ascendere ai gradi più alti. Come già aveva fatto il Bellarmino, anche Bozio tratta la nota della cattolicità in termini di diffusione geografica, ma con un maggiore impegno a seguire sulle strade del mondo la progressiva espansione dell'azione missionaria in India, nelle Molucche, in Cina e in Giappone. Questo muoversi fra discipline così diverse come la teologia, la storia, la geografia, i viaggi, costituisce probabilmente il tratto più originale della cultura del Bozio, quel campo molto nuovo di cui scriveva il Talpa. Di cui gli venne quasi certamente l'idea del rapporto fra cattolicesimo, scienza e tecnologia. Anche gli incontri che gli ebbe in Roma con i reduci dell'Estremo Oriente, per informarsi degli ultimi progressi del cristianesimo in Cina, che poi riporta nel De Signis, poterono forse suggerirgli l'idea di utilizzare, in funzione della polemica antiprotestante, quelle superiorità tecnologiche e scientifiche di cui i missionari si servivano per diffondere la fede cattolica. Su quest'ultimo argomento l'esempio più noto e anche più importante dal punto di vista dell'alto livello culturale che riuscì a raggiungere è quello dei missionari gesuiti in Cina. Scriveva Matteo Ricci, riferendosi agli anni del suo apostolato a Chongqing Fu, 1583-1589, Molti erano attratti dall'orologio grande, altri dagli orologi piccoli. Aveva portato degli orologi in Cina e li chiedeva poi, a mano che li regalava, no? Li chiedeva e gli arrivavano dopo 2 anni questi orologi. Ci voleva 1 anno per un viaggio in Cina, 8 mesi, 9 mesi all'andata e altrettanto al ritorno. E oltre agli orologi mostrava anche belle immagini a olio e a stampa e altri vari strumenti di matematica, mappamondi e cose artificiose che venivano di Europa. Con queste cose, dice sempre il Rizzi, e col parlare dei padri delle nostre scienze, assai più fondate delle loro, vengono a poco tutti a far concetto della nostra terra, dei nostri letterati, e gente essere assai diversa di quello che loro sino a questo tempo avevano pensato di tutti i regni forestieri, che fossero barbari e che in nessuna cosa si potevano comparare con loro. E così, con questa occasione, cominciavano i padri a parlare della nostra santa fede cristiana. In sostanza l'obiettivo era quello di convertire i cinesi, tutti in noto questa cosa, i cinesi alla religione occidentale col prestigio della scienza che veniva dall'Ovest. Ma l'intelligente strategia non riuscì a cogliere i successi sperati. I cinesi avevano capito fin dall'inizio, secondo l'autorevole giudizio di Joseph Needham, che quella scienza era essenzialmente nuova e che essa non era necessariamente collegata al cristianesimo. Mi sembra che il Bossio abbia avuto un'idea vicina a quella del Rizzi, collegare il cattolicesimo alla superiorità tecnologica e scientifica. E certo, anche quest'arma non poteva essere molto efficace, nemmeno in Europa. Quali furono le fonti della peristia catholicorum in omnibus disciplinis? Qui bisogna distinguere. Sono degli elenchi che fanno parte del normale bagaglio della cultura ecclesiastica del tempo. Altri elenchi, invece, quelli sostanzialmente che si riferiscono agli scienziati, ai tecnologi, ai tecnici, tecnologi, suggeriscono diverse fonti, le varie edizioni della Biblioteca Universalis del Gessner e anche, per qualche notizia, il De Rerum Inventoribus di Polidoro Virgilio, un confronto fra gli elenchi del De Signis Ecclesia Dei e quelli bibliograficamente più precisi della Biblioteca Selecta del Possevino, induce a suggerire che i due autori, entrambi collaboratori del Baronio, abbiano attinto dalle stesse fonti. Un rapido sondaggio fra i libri conservati nella Biblioteca Valliceliana dell'Oratorio di Roma, il cui primo nucleo è formato dai lasciti testamentari dei primi seguaci e amici di San Filippo Neri, permette di affermare che quasi tutti gli scienziati, e teologi e tecnologi citati da Bossio vi sono presenti con una o più opere. Di notevole interesse è anche l'inventario dei libri lasciati da Bossio in eredità alla Valliceliana. Opere scientifiche e tecniche sono presenti in buon numero. Ricordo che alcuni, Ippocrate, Vitruvio, Vegezio, Sacrobosco, Appiano, Comandino, Fernel, Rondelet, Medina, Giorgio Agricola, Della Porta, Clavio. Dopo il 1600 gli acquistava fra l'altro 2 opere astronomiche di Tycho Brahe, e poi un'opera sulla Stella Nova del 1604, forse di Keplero, il De Motu Archimedis di Marino Cataldo, e alla vigilia quasi della morte, avvenuta nel dicembre 1610, il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei. Il Bossio dà spesso l'impressione di trattare gli autori e i titoli dei libri al modo di insegna su cui sovrapporre un'etichetta. Ma se questa è la sua tecnica espositiva, questo non significa che lui non fosse un lettore attento, che fosse un lettore superficiale. Godeva giustamente di larga fama di uomo dottissimo, leggeva i libri scientifici e tecnici non meno di quelli di teologia e storia. Basteranno 2 esempi, l'affermazione che i magistrati veneti conservavano modelli di macchine, notizia che non è ancora arrivata sui testi di storia della tecnica, è ripresa dai 3 discorsi sul modo di alzare le acque del Ceredi, ed è in Cardano e forse anche in Tartaglia che ha letto la descrizione delle tecniche con cui sollevare le navi affondate. Oltre che nella nota 24esima, il Bossio affronta l'argomento della superiorità tecnologica e scientifica nella nota numero 93, intitolata Decens Felicitas Catholicorum, per ricordare polemicamente ai protestanti olandesi, tedeschi e inglesi tutti i progressi che i loro paesi avevano realizzato prima della Riforma, da quando, in seguito alla conversione al cristianesimo, avevano incominciato a seguire Autoritatem fidenque pontificis romani, e si erano mantenuti sotto la sua tutela. In quest'ultima, in questa trattazione, egli presentava come segni della vera Chiesa il passaggio dei popoli del nord dallo stadio pastorale e dalla vita nomade allo stato agricolo e agli insediamenti stabili. Allo stesso modo celebrava come bona celitus data i lini dell'Olanda, le lane dell'Inghilterra, la ricchezza delle città commerciali, Londra, Anversa, Francoforte, Lubecca, Amburgo, Genova, eccetera, che erano le prime almeno vanto dei protestanti, quei mercatores senza i quali nessuna repubblica può sopravvivere, e faceva l'apologia dei Fugger e dei Welser, quasi salomonis imitatores, imitatori di Salomone, che avevano accumulato grandissimi beni, amplissima opes, senza un vulnus per la loro illustrissima nobiltà. In questa stessa nota, a ripresa della superiorità economica dei cattolici, viene citato il primato delle città italiane nell'industria serica. L'enunciato è secco e non articolato, ma le ricerche di questi ultimi anni, questi ultimi 10 anni, hanno messo in luce la straordinaria e inattesa dimensione di questo settore fra il 1570-80 e il 1590. Voglio dare alcuni dati. A Bologna 24.000 persone vivevano del setificio. A Genova, dove battevano 12.000 telai, il setificio occupava complessivamente circa il 45% della popolazione, oltre 40.000 persone. Dati analoghi sono stati calcolati per Milano e per Venezia. A Lucca 12.000 persone lavorano la seta. Mancano ancora cifre per città come Firenze, Reggio Emilia, Napoli e altre. Questi dati, ricavati da fonti coeve, sono sicuramente esagerati e andrebbero comunque criticamente commentati. Non lo farò per mancanza di tempo, se ne potrà riparlare durante la discussione, ma intanto credo di poter affermare che le argomentazioni di Bozio difficilmente avrebbero potuto essere formulate senza un riferimento che resta implicito allo sviluppo industriale delle città italiane dell'Italia settentrionale, che è ancora l'area più ricca e più urbanizzata d'Europa. Ma qual è per il Bozio il legame fra religione e tecnologia? Si tratta di un legame teologico che non implica uno specifico sforzo di impegno individuale. La superiorità tecnologica e scientifica è un favore del cielo, un segno distintivo di Dio, che Dio concede ai fedeli della sua Chiesa e che procede direttamente dalla stessa congiunzione con Dio. Istanti, su cui Bozio non cessava di raccogliere prove, informazioni e notizie, poi ampiamente rifuse nelle note. Dalla stessa congiunzione con Dio provenivano i beni materiali. In un'opera pubblicata nel 1594, il Bozio affermava, quindi dopo le Insignias, il Bozio affermava che la felicità umana in generale, e specialmente quella dei beni temporali, dipende dalle virtù e le virtù dalle religioni. Questo collegamento tra la virtù e la ricchezza mi sembra un fatto di straordinaria importanza e mi fa un po' venire in mente gli scritti della scuola scozzese della seconda metà del secolo XVIII, ho in mente soprattutto Ferguson, ma anche certe opere di Adam Smith. Però questa è un'affermazione troppo audace e che forse sarà meglio che io rimediti. In sostanza il Bozio è lontanissimo dalla tesi laica dell'etica calvinista, per cui il summum bonum sarebbe il guadagno di denaro, di sempre più denaro, ma spoglio di qualsiasi fine eudemonistico o semplicemente edonistico, che è perseguito come scopo a se stesso fino ad apparire di fronte alla felicità e all'utilità del singolo individuo come qualche cosa di interamente trascendente e perfino di irrazionale. Invece Bozio collega l'accumulazione della ricchezza alla virtù e la virtù alla religione. Quindi siamo di fronte, no, a una visione completamente diversa e secondo me che io ci orecchio, no, qualcosa che poi si svilupperà nella cultura inglese nella seconda metà del secolo XVIII. Naturalmente questa non è una fonte, ci sono delle assonanze nella storia. Meglio avverte, questo lo conduce la grande apertura geografica e storica, l'importanza che i bona temporalia, il commercio internazionale, la ricchezza mercantile, hanno sempre più chiaramente nel destino dei popoli e anche delle religioni. Ed è questa consapevolezza che lo induce ad assumere questi beni, sebbene metafisicamente inferiori, fra le note della vera Chiesa. Dopo i due ponderosi tomi de Signis, il Bozio pubblicò fra il 1592 e il 1596 ben tre libri contro Machiavelli. In uno di questi, intitolato significativamente De novo et antico Italia statu, l'argomento della superiorità scientifica e tecnologica è ripreso per dimostrare come fosse mal fondata l'ammirazione per i romani del segretario fiorentino. Lo schema del ragionamento è simile a quello della nota 24, opportunamente aggiustato al più ristretto ambito geografico, ma arricchito di nuove osservazioni, come quelle sui mulini ad acqua, poco utilizzati dagli antichi, e sui mulini a vento inventati dai popoli del nord. Anche in quest'opera l'argomento viene applicato alla sfera economica per dimostrare la superiorità dell'Italia moderna. L'ho scritto senza piaggeria, perché poi dopo... dell'Italia moderna, cioè dell'Italia contemporanea, rispetto all'antichità nel numero e nella grandezza delle città, nella popolazione, nello sviluppo dell'agricoltura. In questo confronto il Bozio, che utilizza con abilità varie fonti romane e la letteratura erudita del suo tempo, riesce a svolgere un discorso di efficacia a livello critico. Non negava che Roma, unica eccezione rispetto alle altre città d'Italia, avesse avuto nell'antichità una popolazione superiore a quella presente. Roma non era una città particolarmente popolata nel XVI secolo, ma non così numerosa come alcuni avevano immaginato, e criticava coloro che confondevano i dati dei censimenti romani, indicativi del numero degli aventi diritto alla cittadinanza, con quello degli abitanti della città. Quindi dà anche un contributo, no, alla demografia storica antica. Qui ci sarebbero altre cose da dire, ma non le dico. Ma l'eccezione di Roma, per quanto notevole, non poteva colmare il vantaggio che tutte le altre città italiane, più numerose e più ricche, godevano in fatto di popolazione. Per cui il Bozio poteva affermare, anche sulla base di altre considerazioni, la superiorità dell'Italia moderna in fatto di popolazione rispetto a quella degli antichi. La popolazione è un indice molto importante per, sia nel XVI secolo come anche nel secolo successivo. Perché? Come già aveva fatto Bottero, il livello della popolazione indica il livello delle risorse disponibili. Quindi, se la popolazione aumenta, vuol dire che le risorse sono aumentate. La popolazione quindi diventa un modo, in questi autori, un modo sbagliato naturalmente nella nostra ottica, ma diventa un modo per valutare il livello di prosperità e le capacità, diciamo, di sviluppo, di crescita, sta meglio dire, di un paese, di un'economia. Se poi riconosceva che Roma e il mondo antico erano superiori all'età presente per gli anfiteatri, i teatri, i circhi, i mausolei, le terme, gli obelischi, le battaglie navali, per tutto ciò insomma che gli riferiva al lusso e alla vanità, affermava la superiorità dell'età moderna in edifici più utili, come gli ospedali, come le scuole, i collegi, le università, le chiese, i conventi. Anche qui c'è una visione della società civile, no? Che è molto più articolata e ricca rispetto a quella che era la percezione, diciamo, che si aveva, e che forse abbiamo anche oggi, della Roma antica, che appunto è ricca di tante istituzioni, ma non di queste nuove istituzioni che sono nate col cristianesimo e che evidentemente suppongono, sono la spia di un maggiore rispetto nei confronti degli altri, soprattutto dei poveri. Passando a confrontare gli agronomi antichi con quelli moderni, dava la palma a questi ultimi per avere favorito e promosso l'introduzione di molte nuove piante, come la canna da zucchero, gli aranci, le pesche, ignote all'antichità. E poi nota anche, questa è una notazione interessante, che non so da dove l'abbia presa, che nel periodo moderno era stata introdotta la coltivazione, la rotazione triennale sconosciuta agli antichi. Mi sembra evidente che il discorso di Bozio ha a che fare con il moderno. soprattutto se lo intendiamo nel senso della superiorità dei moderni sugli antichi e per l'accentuazione del valore positivo dei beni temporali, dei beni mondani, valorizzati fino al punto da essere considerati a pieno titolo, come gli altri, segni della vera Chiesa di Dio. E quindi bisogna ammirare lo sforzo del Bozio di uscire al di fuori della cultura ecclesiastica per appunto documentarsi. Tuttavia, qui c'è un problema molto grosso, che è quello della definizione del moderno e della storia del moderno. Io credo che la percezione che abbiamo noi del moderno non era quella che si poteva avere alla fine dell'Ottocento e nemmeno quella che si poteva avere nel 5-600. Quindi qui secondo me si pone un grosso problema. Questa parola moderna è una parola ambigua, è una parola multisignificante, io, per dire la verità, insomma, sento un certo imbarazzo a parlarne. Io credo che bisognerebbe scrivere la storia del moderno. Questa espressione moderna ha una propria storia e penso che bisognerebbe scriverla per poi utilizzarla in senso analitico. Penso che neanche noi sappiamo oggi che cos'è il moderno, sono sicuro che non abbiamo la stessa idea sul moderno. Per me, per esempio, il moderno è la soggettività, è la razionalità, è il disenchantment, è nel campo politico il sistema rappresentativo, non lo stato assoluto. Però capisco bene che queste categorie non si possono applicare all'indietro per quattro secoli, dipende anche... Non credo nemmeno che voi le condividiate, ciascuno di noi non si fa una certa idea del moderno. Ma andando avanti, avvicinandomi oramai alla fine, vorrei continuare il discorso, diciamo, con altri mezzi, che sono poi quelli della storia economica. Il Bozio pubblica il libro nel 1591, alla fine, diciamo, di un'epoca di espansione dell'economia italiana, soprattutto delle grandi città della pianura padana e della Italia centrale. Pensiamo anche al ruolo delle banche, al ruolo di Genova. No, qui c'è, consiglio a tutti, l'istituto ha pubblicato un bellissimo articolo di Giorgio Doria che ti parla appunto, no, dell'incredibile ruolo che hanno avuto i genovesi nell'economia di tutta l'Europa, compresa l'Inghilterra, fra il XVI e il XVII secolo. Però la storia non finisce qui, non finisce nel 1591. L'ultimo decennio del secolo XVI si apre su un orizzonte economico scuro, per le gravissime e ripetute crisi annonarie seguite da altri tracolli industriali e degli sbocchi. Si apre insomma una fase di depressione di lungo periodo, qui, caro, taglio con l'accetta. Si apre insomma una fase di depressione di lungo periodo che attraversa tutte le lunghe guerre dei 30 anni e da cui i paesi del sud Europa, soprattutto l'Italia delle città, usciranno profondamente ridimensionati verso il basso, anche per il definitivo spostamento del commercio internazionale sulle rotte atlantiche. Mentre il baricentro del commercio mondiale si sposta sulle coste occidentali, da Venezia da Genova anche, si sposta sulle coste occidentali del nord Europa, prima ad Amsterdam e poi a Londra. In questo nuovo scenario, con altri paesi, no, che prendono la guida dello sviluppo economico, della crescita economica, non sarebbe stato più possibile ai polemisti cattolici di area mediterranea rivendicare la superiorità economica e tecnologica come un segno della vera Chiesa di Dio. Avviene anzi il contrario. Nel 1689, circa 100 anni dopo la pubblicazione dei De Signis, esce a Londra un Discourse of the Growth of England and Populousness, un discorso sulla crescita in Inghilterra della popolazione and trade e del commercio since the Reformation, dal tempo della riforma. Un'opera che è caratterizzata da violentissimi attacchi contro the assaults of popery, contro gli assalti del papato. Secondo l'autore, i progressi dell'agricoltura, che aveva sostituito in Inghilterra in molte regioni il pascolo, aveva creato le condizioni per lo sviluppo del commercio della popolazione, depresso prima delle riforme, parlo dell'incremento della popolazione, anche per via del celibato ecclesiastico. Questa è un'accusa, no, che forse si faceva già prima, immagino, alla cultura cattolica. Oramai, secondo quest'autore, the Protestant countries, i paesi protestanti, exceeded the popish countries in trade and numbers of people. Adesso i paesi, scrive quest'autore, credo si chiami John Pitti, Pette è scritto, oramai i paesi protestanti superano i paesi papisti, si direbbe, nel commercio e nel numero della popolazione. E così anche le città, adesso traduco, protestanti dell'Ansa, hanno eclissato i loro vicini che sono rimasti legati alla religione romano-cattolica. Anche le province unite, l'Olanda, avevano realizzato, since the Reformation, talvolta gli dice, l'inizio della riforma per lui coincide col regno di Enrico VIII, un fortissimo incremento demografico, passando dalle 700.000 unità del 1622 a 2.400.000 del 1699. Solo un ottavo di questa popolazione era alimentata dall'agricoltura locale. Tuttavia, i prodigiosi granari, magazzini di Amsterdam erano, grazie al commercio, sempre pieni di risorse alimentari. Prodigioso era il numero delle navi e dei marinai inglesi e olandesi, che superavano di gran lunga quelli francesi. Secondo quest'autore, gli sforzi di Venezia per mantenere il proprio commercio erano assai modesti nei risultati in comparazione con l'Olanda, la cui economia era raddoppiata più volte since the Dutch threw off the yoke of the papacy. Fatale sarebbe stata per Venezia l'ordine papale di non commerciare con i paesi protestanti. Non continuerò a commentare questo libro e neppure entrerò in nuovi campi, ma i nuovi campi ci sono. Potrei mettere in luce l'influenza che Bossio ha avuto in Inghilterra nella cultura inglese nella prima metà del secolo XVII e poi come alcuni suoi temi sono ripresi sempre in Inghilterra addirittura nel secolo XVIII. Però c'è già, posso rispondere in sostanza nella discussione su questi altri punti, ma credo ci sia già abbastanza carne al fuoco e credo di dovere oramai cedere la parola. Grazie. Poi condividiamo questo debole Bozio, mi permetto due osservazioni. La prima, non sono sicuro se possiamo inserire le sue opere nel dibattito sulla superiorità fra antichi e moderni, senza discutere il problema dei moderni, quindi moderni nel senso del suo tempo. Una parte sì, perché per Bozio il mondo cattolico del 1591 è la cima della storia mondiale, ma dall'altra parte c'è questo, hai fatto qualche esempio, questa forte rivalutazione del Medioevo, dei tempi del buio Medioevo degli umanisti, che in Bozio diventa quasi il punto di partenza di un cristianesimo che fa sensazione. Quindi il dibattito fra moderni e antichi è sempre stato un dibattito fra 500-600 e l'antichità, quindi chi è superiore? Il Medioevo non c'entrava, no, il Medioevo è... Ma io non l'ho detto. No, ma questa è la particolarità di Bozio, che poi fino al nostro secolo non c'è più, quindi è uno dei... Secondo me il primo e per tanto tempo l'unico a rivalutare il buio medioevo contro l'antichità. E in questo senso non si può inserire nel dibattito sulla superiorità dei moderni o degli antichi. L'altro punto, hai già detto che rischiavi un po' quando hai parlato degli scozzesi del Settecento, lo stesso direi che la virtù di Ferguson, di Smith, Hutchinson e così via, è una virtù secolare, mentre quella di Bozio è una virtù che è quasi il prodotto della vera fede. Quindi prima si crede, poi credendo, si crede al Dio cattolico, certo, credendo al Dio cattolico si diventa virtuoso e così si diventa ricco. Per gli scozzesi si è virtuoso perché si lavora e così si diventa ricco. Dunque, sulla prima questione io sono parzialmente d'accordo, nel senso che il Bozio, è una parte che non l'ho letta, che ho saltato, credo, che il Bozio appunto rivendica una continuità nella storia della cultura, diciamo, dell'Occidente, da Boezio in avanti, quindi respinge una rottura che si sia appunto verificata con Boezio come facevano gli umanisti. Quindi qui direi che non sono in disaccordo con te. Questo non significa che non resti valida l'affermazione della superiorità del mondo moderno sul mondo antico. Non vedo un rapporto stretto. E poi c'è il problema della virtù. Qui nascono dei problemi seri, perché le virtù nel mondo antico sono sostanzialmente le virtù militari. Poi c'è lentamente uno spostamento, no? Una reinterpretazione di questo concetto che avviene in Inghilterra nella seconda metà, in Scozia, forse anche prima, ma insomma diciamo che noi sappiamo che avviene in quel periodo lì, quando appunto le virtù sono quelle virtù che sono delle virtù morali, ma che nel medesimo tempo sono anche alla base delle regole del mercato e che permettono quindi di accumulare dei danari, di accumulare ricchezza. Quest'idea, no? Non è staccata dalla fede in Dio. Pensiamo per esempio a Malins. Malins che cosa dice? Dice che il credito, trust, diremmo, che il credito che è alla base del commercio è fondato sulla comune fede in Gesù. Questa è una citazione quasi letterale che ti posso inviare. Sono i mercanti onesti in sostanza, i mercanti virtuosi, nel senso che poi sarà degli scozzesi, no? Che riescono a sviluppare un livello di fede, di fiducia, diremmo noi oggi, no? Per cui si fa un commercio, dice un altro filosofo, in questo caso napoletano, Andrea Doria, si fa un commercio in cui tutti guadagnano. E non si fa invece un commercio in cui se qualcuno guadagna l'altro perde. No? Perché in certe parti d'Europa, per esempio nell'Italia meridionale, secondo questo filosofo napoletano, Doria, si concepisce il mercato in questo modo, cioè come una specie di inganno. Se tu guadagni, l'altro perdi. Il mercato, lo scambio è un rapporto a somma zero. Mentre invece una concezione superiore del mercato, che è fondata sull'onestà e sulla moralità, garantita dalla comune fede in Gesù, secondo Malins, è quella che permette a entrambi i contraenti dello scambio di guadagnare. Quindi c'è una diversa concezione del mercato che si va avanti nel corso fra, diciamo, il XV, il XVI e il XVIII secolo. No, forse bisogna andare anche prima. Cioè, in tutta l'età moderna si pone questo problema, in sostanza, no? Del problema della fiducia nel mercato. Quindi io ritengo che questa virtù è una virtù laica, è la virtù, non è quella militare, è la virtù dei commerci, ma nel medesimo tempo è una virtù che in qualche modo è sempre legata con a un principio di carattere metafisico, nel senso che, dice Malins, è la comune fede in Cristo, in Gesù, che appunto è la base dei commerci da cui si acquista ricchezza. non so, neanche io credo fino in fondo a quello che dico, quindi puoi anche non essere convinto. Non esagerare. Avversario certamente non sono, ma vorrei sottolineare anch'io il carattere piuttosto tradizionale di questo argomento. Il carattere? Piuttosto tradizionale di questo argomento, che diciamo Dio favorisce, certo, un'economia in prosperità. Che questi fenomeni di un'economia in fioritura si causano con l'appoggio di Dio, cioè questa idea che un popolo sia una nazione, una regione sia favorito perché è fedele alla parola di Dio, ma è un argomento che troviamo spesso anche nel 400, per esempio, che Dio sta premiando il suo popolo eletto. Tutto quello che mi sembra nuovo è, diciamo, uno scambio che, tra questo concetto di popolo eletto, di confessione eletta, diciamo. Dio favorisce la confessione cattolica in un modo facilmente riconoscibile, ma anche io vorrei sottolineare il carattere piuttosto, diciamo, tradizionale di questo concetto di virtù, perché anche io non credo che sia paragonabile a quella virtue of dei economisti scozzesi del Settecento. L'idea comune di questa epoca, del 400, anche del primo 500, che è la fedeltà a Dio, alle sue regole, alle sue prescrizioni, viene premiata anche col successo economico. È un argomento che troviamo, per esempio, da Savonarola direttamente, che la nazione fiorentina, quando rimane fedele a Dio, riceve premi di carattere molto materiale. Dunque questo sillogismo pratico, se vogliamo citare la parola famosa del Weber, si trova già prima. Io non lo valuterei, vorrei valutarla come, diciamo, sintomo di modernità. Credo che questo è piuttosto un concetto molto tradizionale. Sì. Ah, scusa. No, ma io appunto ho detto che si tratta di un concetto tradizionale, quello del Signore Dio che premia i propri fedeli. È vero che ho detto che si trova nella Bibbia, non solo nella Bibbia, si trova anche in Cicerone, nel De Natura Deorum, c'è questa idea. Quindi su questo siamo d'accordo, cioè l'idea è un'idea tradizionale. La novità, se c'è una novità in Bozio, non sta in questa idea, è l'idea vecchia, ma sta invece nel modo in cui l'ha sviluppata, no? Cioè in sostanza in tutta questa analisi, no? Che conoscitiva, in cui lui mostra, no, in cui lui sottolinea in sostanza tutta l'articolazione in sostanza, no, dei beni materiali, insomma, della temporalis felicita. Questi beni restano sempre dei beni inferiori, quindi lui in realtà su questo punto cita Sant'Agostino, quindi non ci sono problemi, non c'è nessuna novità. Cita Sant'Agostino, cita San Tommaso, e tuttavia è interessante il modo in cui lui ha, diciamo, documentato e sviluppato il proprio argomento. Il problema delle virtù. Il problema delle virtù, invece, quando lui parla delle virtù, starei per dire che entra in un altro campo, quasi in un altro campo. Perché il mondo delle virtù, improvvisare non mi fa bene, ma comunque, perché dico delle cose che non dovrei dire, ma direi che il mondo delle virtù è un mondo che contiene qualche cosa della soggettività. E quindi un minimo di impegno individuale e soggettivo. Lui dice che è garantito da Dio. E questo rientra anche nella tradizione. Ma nel medesimo tempo apre verso, secondo me, un altro concetto. Anch'io sento il bisogno di attenuare quello che ho detto, ma l'ho detto, diciamo, un po' ex abbondanza, no? E tuttavia mi sembrava questo avvicinamento, no, delle virtù che fanno arricchire alla fede in Dio, no? È proprio questa parola virtù, non tanto il fatto di continuare a credere, no? Ma la virtù che è legata in qualche modo che è legata, che è garantita da Dio. E ho fatto questo discorso, ho fatto questo esempio appunto di quali sono le condizioni che permettono quello scambio mercantile in cui tutti possono guadagnare. E questo, se non c'è l'onestà dei mercanti, non può avvenire. Non so se ho risposto in un modo soddisfacente, ma magari possiamo parlarne dopo. Grazie. Io volevo soltanto aggiungere che forse il nuovo è anche nella competizione, e che per esempio lei ha citato questo autore inglese, ma c'è esattamente lo stesso momento che proprio un autore, un economista, filosofo Usselinski, che viene da un terzo tempo fuoco in Amsterdam, Usselinks, e che sostiene nel fine del Cinquecento, proprio contemporaneo, e che vive in questo momento il declino di Anverso, dove lui viene, e la prosperità, la crescita di Amsterdam, e che giustamente attribuisce questa crescita di Amsterdam e la declina di Anverso al fatto che Amsterdam è diventata una città protestante fedele allora, e che più tardi dei gesuiti anversani come scrivani riprenderanno quello tipo di argomentazione per ricrivere la nuova crescita all'inizio del Settecento, infatti. Allora, che c'è tutta una competizione di argomenti simili in questo periodo. Certo. Comunque, grazie di questa informazione che io userò, se lei permette. Infatti nel nuovo libro di Jonathan Israel su Israel, ho capito. La crescita della Repubblica, olandese. Lui cita e fa riferimento a questo Usselinks. Sì, io non ho letto questo libro, ho letto degli altri, ma non questo. Grazie. Le mie sono solo delle notazioni che non so se poi hanno anche molto senso, ma quando prima sentivo il tema della religione della ricchezza, poi non ancora sul tema della virtù, a me veniva in mente Botero. C'è tutta una serie di problematiche di questo tipo che sono affrontate a proposito della Repubblica e del Principe, e tornano e sono collegate. Quindi che tipo di rapporto, non lo so, che tipo di rapporto c'è tra, è probabile che ci sia, la lettura che fa Bozio e le suggestioni che sicuramente ha avuto da Botero, che era un bagaglio classico in fondo. Pure hai detto Botero o... Botero. Ah, Botero, sì, certo. Botero. E l'altra cosa invece è che mi ha molto interessato e che è stata messa in evidenza. È un autore che andrò a leggere, ha avuto degli abbagli, tutto il tema della crisi, della decadenza dell'Italia, e invece lui aveva davanti la situazione, prima. D'altra parte, prima è anche la Lombardia è una delle regioni con il più alto tasso di alfabetizzazione europea. Grazie. Ti ringrazio molto a questo punto. Facciamo breve, sì. Perché è molto tardi, quindi solo due parole. Sì. Mi riferisco alla sua presentazione e al concetto di moderno. Non è un caso unico il suo in Trentino. Alla fine dell'Ottocento, nel centenario della nascita di Rosmini, a Rovereto, per la commemorazione, era venuto il professore di filosofia del diritto di Messina, ma era venuto soprattutto il senatore ed economista di chiara fama, Lampertico. che si può, di cui si può ammirare la statua di fronte all'Olimpico a Vicenza. Vicenza, certo. Solo che Lampertico si è permesso di disquisire sul terreno filosofico. Qui nel discorso generale non è mai entrata la filosofia, però credo che con Lampertico, in quella circostanza, a esaminare in profondità, si potrebbe scoprire che dall'immanentismo, prima pratico, poi teoretico, dal 500 all'800, con Lampertico si schiude, grazie a Rosmini, l'universalismo che caratterizzerà la storia della, non la storia delle guerre, ma la storia della civiltà del XX secolo. Poi vorrei richiamare l'attenzione su un autore che adesso si trova sugli altari, è vero? E che dal punto di vista di un contributo scientifico è stato particolarmente esaltato a Firenze con una duplice mostra, umanistica e scientifica, ed è lo Stenone. Grazie. È così facile. Quando si fa il nome di Poteo in questo contesto, secondo me bisogna dire che l'idea, l'importanza delle ricchezze della popolazione, tutto quello lo prendono da Bodino, Jean Bodin, che appare nel 86, è tradotto in latino, si autotraduce in latino, nel 89 appare in italiano. Poteo l'ha letto, si sa, Bozzo l'aveva letto senz'altro, o in latino o in italiano. Devo dire che Bozzo non lo cita. Non cita neanche Poteo, fra l'altro. Sì, è difficile poi, perché 91 è Poteo e anche 89, quindi è un po' stretto. Sì, sì, non lo citano, è vero. Vorrei partire dall'ultimissimo punto, l'influenza di Bozzo sulla questa opera del 1689, se non ho capito male. No, uscita non c'è influenza. Allora avevo frainteso. No, influenza, poi parlo dell'influenza che Bozzo ha avuto in Inghilterra nella prima metà del secolo XVII. No, e questa è un'opera che capovolge, diciamo, la tesi di Bozzo. Quest'autore però, io non l'ho letto attentamente questo libro ancora, perché è una scoperta abbastanza, l'ho scoperto pochi mesi fa, e tuttavia l'ho voluto citare lo stesso. E non so se citi Bozzo in sostanza, può darsi che lo cita, può darsi no. Bozzo è conosciuto in Inghilterra comunque, nella prima metà del secolo XVII si scrivono dei libri che in realtà sono ispirati al De Signis, anche con altre curvature, cioè sul terreno sostanza dei conflitti, sul terreno della superiorità degli antichi e dei moderni. George Aquil scrive appunto un libro per dimostrare la superiorità degli antichi sui moderni, in cui utilizza largamente il De Signis e lo dice. E poi ci sono anche altri autori, che poi quest'ultimo autore del 1600 abbia letto Bozzo, questo io non lo posso né confermare né smentire. Ecco, no, comunque volevo dire, io avevo frainteso probabilmente, pensando che tu avessi parlato di un'influenza di Bozzo. Il problema è che questa letteratura circolava, come tutta l'altra, insomma, in maniera estremamente ampia. E mi sembra un po' difficile poter ipotizzare in qualunque modo che quest'opera del 1689, ancorché non abbia ricevuto alcune influenze dirette da Bozzo, comunque non faccia parte più in generale di un modo di scrivere e di una letteratura estremamente diffusa, di generi letterari molto diffusi, che non mi sembra difficile che abbiano a che fare appunto con qualcosa di specifico. In ogni caso, Il problema è che anche a me, come ad altri intervenuti prima di me, questa novità da tutti i punti di vista di Bozio, sia in realtà il problema delle virtù, rapporto, virtù, religione, felicità, non c'è niente di nuovo, insomma il problema delle virtù è un problema e del rapporto con la religione è un problema dibattutissimo. Il problema del fatto che si muova fra tante discipline diverse è una cosa assolutamente normale, insomma, non, anche perché beh, sì, la letteratura non c'era nessun, prima di tutto alcune discipline in quanto tali, come dire, non erano definite, che ci fosse fra, soprattutto in questo un'ampia conoscenza di una letteratura che noi oggi attribuiamo a discipline diverse, questo era assolutamente normale. A me sembra, io non ho letto Bozio, no? Ma dalla descrizione che tu ce ne hai fatto, molto interessante, ma mi sembra che, come dire, sia come tanti altri alla sua epoca, con questa motivazione specifica della superiorità del cattolicesimo, sia però un raccoglitore di informazioni altrui da tutti i punti di vista, anche per quello che riguarda per esempio l'industria serica, insomma, cioè bisognerebbe, credo, vedere quanti altri contemporaneamente o poco prima o poco dopo di lui hanno detto le stesse cose o a cose analoghe, insomma, altrimenti è difficile valutare la ma, credo, insomma. Sì. Proprio nessuno tranne forse sul fratello Francesco. Senti, tu dici che ci sono centinaia di scrittori che hanno scritto su queste cose. Se tu me li indichi, io li vado a leggere, perché io non li ho trovati. Ti dico, no, io ho fatto ricerche appunto per vedere se questo tipo di discorso, no, c'è prima di lui, nei periodi in cui lui scrive, dopo, francamente non li ho trovati. Però, questo non vuol dire, forse io non ho cercato abbastanza, non ho visitato abbastanza biblioteche e così via. La mia impressione comunque, sono ricerche che vanno avanti da molti anni, sebbene in un modo diciamo un po' frammentario, è che l'opera del Bozio è un'opera che io ritengo finora, salvo il contrario delle esperienze empiriche, è un'opera abbastanza isolata, ecco. Però può darsi che non sia vero. Tuttavia, se tu hai delle schede, ti sarei molto grato se tu me le dai. Ecco, che poi lui sia un raccoglitore di notizie, su questo non ho il minimo dubbio. Questo è verissimo, e credo di aver mostrato, detto che appunto è uno che raccoglie notizie, che mette delle etichette su delle figurine. Certo. Sono gli anni della biblioteca silente del possedimento. Certo. Cioè, è lo stesso tipo di... Per cui è un uomo pieno di contraddizioni. Non è assolutamente da citare come innovatore nel senso di una proposta, è soltanto un testimone, credo veramente unico da questo punto di vista, di questa discussione su questo modello, tra virgolette, chiamiamolo quello, insomma, che diventa appunto nell'apologetica di Bozio una prova, appunto, una nota della Chiesa, della superiorità della Chiesa. Io credo che le cose che ha detto Poni diano proprio la possibilità di scavi infiniti, ecco, in questa direzione, proprio di qui anche l'interesse di questo ultimo intervento. Non voglio, ormai è tardi, quindi, ma prendiamo il problema della trust, della fiducia, del contratto. Il problema non è, la novità non è nel fatto che si dica che appunto la fiducia o la virtù, ecco. Il problema è che questo discorso si innesta in tutta una serie di trattati sui contratti che nella seconda metà del Cinquecento sconvolgono completamente tutto, certo, il mondo occidentale, insomma. Cioè, il problema è anche la morale, certo, i trattati sulle virtù, qualsiasi summa medievale ce le aveva, insomma. Soltanto che nella seconda metà del Cinquecento noi vediamo che questo si mescola con la dottrina del contratto, si mescola con il mondo economico, si mescola direi con la vita, insomma. Ecco, per cui non vedrei, ecco, cioè, è evidente, insomma, non si può proiettare la Bentham sulla fine del Cinquecento, ecco, però come non si può fare questo, io penso che sia anche sbagliato proprio vedere una cesura, una rottura in una linea di cammino invece in cui l'etica a poco si stacca anche nella trattatistica dai trattati di teologia generale, si avvicina al diritto, nascono nasce quello che secondo me è il diritto moderno. Quindi è tutto un percorso, direi, di cui credo Boni ci ha presentato in questo, questa figura assolutamente appunto anomala, incomprensibile, perché appunto aspetti reazionari, aspetti innovativi di Bozio, e appunto c'è anche suo fratello Francesco, poi certi trattati non si sa se li abbia scritti lui su, o il fratello, cioè non è ancora chiaro come andavano le cose, perché intorno all'oratorio di Roma era una specie di officina, ecco, appunto in cui pensavo che in una stanza lavorava Bozio, nell'altra lavorava Baronio, cioè bisogna pensare un po' a un sistema di questo tipo qui, insomma, in questa grossa impresa apologetica che appunto deforma tutto, ma intorno alla quale noi possiamo trovare appunto noi queste note del moderno, in qualche modo, almeno credo proprio di sì. Questo era solo detto per dire quanto abbiamo, credo tutti, approfittato di questa lezione di Boni, e la leggeremo e poi avremo da scavarci dentro parecchio. Grazie a tutti, i lavori della giornata sono finiti.